Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo del rapporto Svimez, che come ogni anno fa il punto sulla situazione economica del nostro mezzogiorno. Devo dire che quest'anno, pur con molte zone d'ombra, in realtà c'è anche più di un elemento, non dico positivo, ma di recupero. Lo Svimez, che non è mai stato ottimista né tenero, sostiene che le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. È chiaro che negli anni scorsi invece il divario è aumentato, e quindi il recupero che deve fare il sud è più ampio. Però fa notare lo Svimez che nelle ultime stime, aggiornate a ottobre, se il PIL italiano complessivamente crescerà dell'1,5%, il centro-nord farà più 1,6, più 1,3 il sud, che è appunto un recupero che si avvicina a quello del centro-nord. Nel 2018 il PIL complessivamente italiano dovrebbe crescere dell'1,4%, con un 1,4 o meglio 1,1%, con un 1,4 nel centro-nord di crescita e 1,2 al sud. La cosa interessante è che cresce questo PIL grazie anche a un andamento della domanda interna, che viene stimata al sud quest'anno in crescita dell'1,5%, l'anno prossimo dell'1,4%. Sono livelli quasi identici a quelli del centro Nord. Anche sulle esportazioni lo Svimez dice cresceranno più le esportazioni nel mezzogiorno che al centro-nord, in quota percentuale chiaramente, non in valore complessivo, più 5,4% nel mezzogiorno rispetto al 4,3% del centro-nord, degli investimenti più 3% nel mezzogiorno e più 2,7% nel centro-nord. Queste le note positive: crescono gli occupati, ma soprattutto a basso reddito, e in questo si conferma una tendenza, diciamo, di un recupero dell'occupazione, ma non della qualità di questa occupazione. Ne abbiamo parlato molte volte: mancano l'appello a centinaia di migliaia di ore di lavoro, il che vuol dire che lavorano più persone ma lavorano meno ore, e questo ha un impatto immediato anche chiaramente sui salari. Nei primi 8 mesi del 2017 incentivati 90.000 rapporti di lavoro. Gli statali sono in calo al sud: nel 2011-2015 sono 21.500 in meno. Resta comunque come punto di grande fragilità e di grande debolezza la cosiddetta fuga dei cervelli, che nel caso del sud assume le forme di una fuga vera e propria, sia per la formazione e quindi dopo la scuola dell'obbligo, sia come appunto lavoro. Comunque, ripeto, ci sono anche elementi, dopo anni e anni di rapporto Svimez totalmente negativo, è la prima volta a mia memoria che i segnali positivi iniziano a essere ben presenti. Di questo parleremo, così come parleremo della borsa, che oggi è di nuovo poco variata a Milano, l'indice fa meno 0,08%, quindi è fermo. Per quello che riguarda Parigi, meno 0,30%, Francoforte meno 0,40%, e ancora Londra meno 0,60%, Dow Jones invariato, euro su dollaro quota 1,15. Tra i titoli segnalo che va bene Banca Mediolanum, più 1,40%, Mediobanca più 1,1%, di nuovo linee energetici con Eni più 1%, Fineco invece più 0,70% come banca generali, sempre sull'indice principale del listino. In negativo, poi chiaramente ne parleremo in maniera più estesa, ma in negativo Per quello che riguarda i titoli, segnalo invece Prismian meno 1,80, come Ferragamo, l'1,60 lo perde Biperbanca e Leonardo, l'1,5 il calo di Estima Microelectronics e Banco BPM, ricordati meno 1,40, Telecom meno 1,20 come Iux Net-a-Porter, UbiBanca meno 1% come Ferrari, Buzzi Unicem e Mediaset. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre diretta anche su Facebook. Di cosa parleremo oggi al di là del rapporto Sfimez? Beh, della posizione europea dopo l'Eurogruppo di ieri sera sulle banche. C'è anche l'intervento di Mario Draghi, che ha fatto un discorso introduttivo al forum sulla vigilanza bancaria della BCE a Francoforte. Beh, devo dire che insomma lo ha ammesso lo stesso ministro dell'economia Padoan, che si è sentito solo, o meglio era il solo, a sollevare dubbi sulle nuove regole che vorrebbe far partire la Banca Centrale Europea su come si calcolano le sofferenze bancarie. Lo abbiamo già spiegato molte volte, dal 1 gennaio l'intenzione della BCE è quella di, per le nuove sofferenze, non per le vecchie, avere criteri molto più restrittivi e addirittura il famoso tema dei anche quando il prestito che va in sofferenza è relativo a un immobile, massimo 7 anni, e poi lo devi completamente svalutare. Sono regole che rischiano nel sistema italiano creare una stretta del credito, e cioè rendere le banche ancora più prudenti e restie a dare credito se sai che hai un tempo molto breve, anche quando, a mio avviso quella è la cosa più così che lascia più perplessi, quando hai come garanzia un immobile. Perché perplessi? Perché non tiene conto del fatto che l'Italia ha dei tempi anche della giustizia e quant'altro un po' più lunghi, ma se tu hai un immobile non puoi trattare quella sofferenza bancaria come un credito che non ti ritorna, magari basato su principi molto molto più aleatori. Insomma, l'immobile alla fine lo riesci a riscattare e lo puoi vendere, per cui su questo insomma attenzione, che non c'è gran consenso, ma non c'è neanche grande sensibilità, da quello che ho capito io. Insomma, gli altri partner europei hanno un po' detto boh, chi se ne frega, questo lo aggiungo io, tanto il problema grosso delle sofferenze bancarie ce l'avete in Italia. Certo, in Germania, ma non solo, anche in Francia hanno il problema dei titoli tossici in portafoglio delle banche, ma quelli non sono mai stati trattati con tanta severità, e la polemica, la chiosa polemica è del tutto personale, del tutto mia. Anche di questo parleremo a livello di approfondimenti. E poi un settore importantissimo del Made in Italy, e mi riferisco alle cosiddette due ruote, che vuol dire sia bici ma anche tutta la parte del quindi il ciclo e il motociclo. L'Italia da sola fa la metà del fatturato europeo del settore, con un giro d'affari di 4 miliardi di euro, e questo considerando solo i costruttori che hanno i propri impianti in produzione in Italia. Sono 15.000 addetti, e anche qui la metà della manodopera europea nel ciclo e motociclo sta in Italia. Lo dico perché oggi è stato inaugurato a Milano Rho, alla Fiera di Rho, la 75esima edizione di EICMA, presente anche il ministro Madia, il presidente Confindustria Boccia e vari testimonial, perché c'è tutto l'aspetto anche più di colore. Agli appassionati dico che c'era Keanu Reeves, i campioni del mondo Agostini, Max Biaggi, Cairoli, insomma. Però è diventato un evento che non è solo per addetti ai lavori, cioè il B2B, ma è un evento come avviene anche per altri appuntamenti. Penso al Salone del Mobile, penso al Vinitaly, è un appuntamento che diventa anche molto di colore. Questa comunque è l'edizione più importante di sempre, con un 14% in più di espositori e un 57% in più di biglietti prenotati. Dovrebbe infatti registrare il record in una storia che a questo punto è quasi centenaria, sono 75 edizioni. 349-238-6666, dicevo, per sms e whatsapp. Andiamo sulle altre notizie In breve parleremo anche, mi chiedete, sulle commissioni bancarie, ma sì, toccheremo il tema perché ci sono state dichiarazioni anche oggi del Presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche, la Commissione bicamerale, Pier Ferdinando Casini, dopo le dichiarazioni rese anche nel fine settimana, quando Casini ha detto si impone un confronto tra la Banca d'Italia e la Consob, perché abbiamo registrato, cito testualmente, incongruenze e visioni diverse, credo sia nell'interesse di tutti arrivare alla verità con un accertamento preciso del quadro delle responsabilità. Andiamo con le notizie in breve. Allora, per quello che riguarda il petrolio, visto che continuiamo a tenerlo monitorato dopo le tensioni e anche i repulisti, gli arresti fatti in Arabia Saudita, e dopodiché ci sono anche tensioni fra Arabia Saudita e Iran sul Libano, insomma resta a $64 il Brent e a $57,3 il WTI, sempre sui livelli più alti degli ultimi due anni. Questa mattina a Tokyo invece ha chiuso ai livelli più alti, il Nikkei ha segnato un più 1,70%, ma al di là di questo, devo dire bene anche Hong Kong, più 1,30%. La cosa interessante è che l'indice della borsa di Tokyo ha i livelli più alti dal 1992, questo sia perché segue il buon andamento di Wall Street, sia perché stanno arrivando trimestrali buone anche in Giappone. Veniamo invece all'Europa, ancora si discute sui Paradise Papers. Domenica arriveranno i nomi degli italiani che hanno depositato soldi nei paradisi fiscali. Faccio notare che nonostante questo, ma soprattutto nonostante la polemica e il dibattito europeo condotto da Francia, Italia, Germania e Spagna sulla digital taxation e quindi sulla necessità che i grandi colossi dell'information technology paghino le tasse là dove fatturano, non là dove più gli conviene, beh insomma Apple se ne, da quello che leggiamo oggi sul New York Times, se ne strafrega. L'isola di Jersey nel Canale della Manica è il nuovo paradiso fiscale di Apple, dove sono parcheggiati miliardi di dollari non tassati, lo scrive il New York Times, che cita i Paradise Papers e i documenti segreti dello studio legale Appleby con base nelle Bermuda, quello che di lavoro offre i servizi ai miliardari e alle grandi società dove collocare i patrimoni nei paradisi fiscali. Scrive il New York Times: Apple avrebbe accumulato più di 128 miliardi di dollari di profitti offshore che non sono tassati dagli Stati Uniti o da altri paesi. Strategie usate come quella usata da Apple per l'isola di Jersey e usate da altri colossi costano ai governi a livello mondiale circa 240 miliardi di dollari di entrate perse ogni anno. I dati sono dell'OCSE, sono praticamente 10 manovre finanziarie dell'Italia anche all'anno. Tra l'altro Apple avrebbe scelto Jersey dopo le indagini del congresso americano sull'elusione fiscale e dopo il giro di vite lanciato dalle autorità irlandesi. Insomma, si unisco questa notizia al fatto che Amazon paga in Gran Bretagna 11 volte in meno come aliquota rispetto a una libreria tradizionale del Regno Unito, che in Irlanda Apple ha pagato, nonostante un'aliquota già bassissima del 12,5%, nel 2014 Apple ha pagato lo 0,005% dei suoi profitti, perché c'erano anche gli accordi con i singoli governi. E potrei andare avanti così. Insomma, la battuta è chiara, insomma, saranno pure la new economy, il futuro che avanza, ma di pagare le tasse proprio non ne vogliono sapere. E anche nonostante le polemiche Apple va avanti con la ricerca di paradisi fiscali che non sono sempre ai Caraibi, possono essere anche appunto come Jersey in mezzo alla Manica. Allora, ieri abbiamo un po' non scherzato ma preso in giro Bono Vox, perché insomma è stato beccato anche lui ad avere i soldi nei paradisi fiscali. Dopo lui ha detto oggi di provare rammarico, perché dai documenti, dai Paradise Papers, si evince che avrebbe investito in un shopping center in Lituania, il quale avrebbe evaso le tasse. Ma ha detto: sono contento che la questione sia diventata oggetto di notizie. Il cantante irlandese possiede una quota in una compagnia maltese che, secondo i Paradise Papers, avrebbe acquistato il centro commerciale lituano attraverso una holding. L'impresa, che è nella città lituana di Utena, è ora sotto inchiesta. Bono ha detto di essere estremamente rammaricato, anche se è un investitore di minoranza. Il cantante ha detto che gli era stato assicurato da coloro che gestiscono la compagnia che era pienamente in linea con le tasse. E vabbò, ce ne faremo una ragione. Veniamo all'Italia, l'Istat, le vendite al dettaglio. Attenzione che non basta un mese per fare una ripresa dei consumi, però il commercio al dettaglio, dopo mesi di affanno, l'ho preciso a chi mi dice: ah, notizie positive che cerchiamo di contestualizzare. Dopo mesi di difficoltà c'è un segno più 3,4% nelle vendite a dettaglio su base annua, questo quanto riguarda il valore. Il volume è più 2,7%, un dato del genere non si vedeva dal marzo del 2010. Vanno bene soprattutto gli alimentari, più 4,4%, e anche la grande distribuzione, più 5,6%. La Banca d'Italia in audizione, come sta avvenendo in questi giorni, sulla legge di stabilità, sulla manovra finanziaria. È intervenuto il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini. Ha detto: l'economia migliora, le stime sono condivisibili, è possibile centrare i target anche nel 2019. Attenzione però ai rischi messi nella legge di stabilità che derivano dalla stima di quanto incasserà lo Stato dalla lotta all'evasione. La stima resta incerta come sempre in questi casi. L'economia continua a migliorare. Nel bollettino economico di ottobre, quindi che è intervenuto tra la mia ultima testimonianza e oggi, abbiamo riportato stime secondo le quali il prodotto interno lordo nel terzo trimestre potrebbe essere aumentato di circa 0,5 punto percentuale. Se questa stima dovesse confermarsi, la crescita acquisita nei primi 3 trimestri dell'anno sarebbe già pari all'1,5% in termini di media giornaliera. Poi bisogna vedere alla fine dell'anno il dato finale. L'anno in corso ha un numero di giornate lavorative inferiori a quello precedente, che potrà marginalmente influire sull'ultima valutazione. Comunque, diciamo, le notizie congiunturali date l'altra volta sono confermate. È dunque ragionevole, sulla base dell'esperienza, attendersi effetti positivi dalle misure di contrasto all'evasione. Tuttavia, la stima di tali effetti resta per forza di cose incerta. Basare una quota significativa delle coperture su tali introiti, come avviene soprattutto per gli anni successivi al 2018, comporta inevitabilmente un elemento di rischio. Esso andrà tenuto presente nel monitorare nel corso del tempo l'evoluzione effettiva dei conti. E poi il tema pensioni, ossia l'adeguamento della pensione di vecchiaia in base all'attesa di vita stimata dall'Istat. Ne abbiamo parlato molte volte, è aumentata di 5 mesi, quindi vorrebbe dire che dal 2019 si andrà in pensione come vecchiaia a 67 anni. E la Banca d'Italia dice: occorre difendere l'attuale struttura, mantenere l'equilibrio di lungo periodo. Si possono fare aggiustamenti, ma l'importante è preservare la stabilità complessiva. E quindi non fare passi indietro, perché nel lungo periodo la sostenibilità delle finanze pubbliche poggia in larga misura sulle riforme pensionistiche introdotte in passato, che assicurano una dinamica della spesa gestibile nonostante l'invecchiamento della popolazione. È importante non fare passi indietro. Ascoltiamo anche questo passaggio della Banca d'Italia sulle pensioni, che uniamo però a un altro intervento, che è quello della Corte dei Conti, sempre sul tema delle pensioni. Dice Arturo Martucci di Scarfizzi, presidente della Corte dei Conti, leghiamo i ritocchi agli effettivi disagi, qui il tema è sui lavori usuranti, ma anzi ascoltiamo prima la Banca d'Italia, perché anche la Corte dei Conti occorre legare i ritocchi agli effettivi disagi. A mio avviso qui c'è uno strabismo di fondo molto italiano, si preferisce fare polemica molto teorica, forse anche per motivi politici, senza andare a operare in maniera molto concreta e pragmatica. Comunque, la Banca d'Italia sulle pensioni. La sostenibilità delle finanze pubbliche poggia in larga misura sulle riforme pensionistiche introdotte in passato, che assicurano una dinamica della spesa gestibile nonostante l'invecchiamento della popolazione. Aggiustamenti di carattere tecnico per tenere conto di particolari situazioni sono sempre possibili, ma è importante nel complesso del disegno del sistema pensionistico non fare passi indietro. E appunto, dello stesso tenore l'intervento della Corte dei Conti. Perché dico che c'è un po' di atteggiamento italiano? Perché adesso tutti, la politica dire blocchiamo l'adeguamento automatico dell'età di vecchiaia, gli esperti a dire attenzione che questa qui permette, avrebbe un impatto, lo dicono tutti, non solo l'ex ministro Fornero, ci mancherebbe, ma avrebbe un impatto abbastanza pesante, lo ha detto il presidente dell'INPS Boeri, lo dice la Banca d'Italia, la Corte dei Conti, sulla tenuta del debito pubblico. Io dico, ma invece che ragionare sempre per massimi sistemi, siccome alcuni lavori, tra cui metto quello del giornalista, così, li puoi fare anche a 66 anni, a 67 anni, altri lavori sono realmente usuranti, e siccome è abbastanza imprecisa, non riusciamo mai a capire la legge e la definizione dei lavori usuranti, in un paese più concreto forse ci si metterebbe lì, invece che far tante sparate, blocchiamo tutto, lasciamo fare al prossimo governo, per avere consenso politico, perché dire blocchiamo l'adeguamento delle pensioni ha un grosso consenso politico, poi devi spiegare anche ai figli dei futuri pensionati che cosa capiterà al debito pubblico. Uno si mette lì, studia con le categorie quelle che sono categorie lavori usuranti, dando anche definizioni molto precise di questo. Abbiamo detto, ci sarà sicuramente il camionista che insomma fa l'autotrasportatore, ma ci può essere anche l'insegnante che non può essere obbligato a stare a 65 anni in classe, visto che c'è un problema anche così di docenza il più possibile moderna e contemporanea a 65 anni in classe. Bisogna entrare nelle singole categorie, magari un impiegato può essere considerato meno usurante, lo puoi fare anche a 65 anni. Professori universitari già adesso hanno la possibilità di fare la docenza oltre i 70 anni. Per cui insomma, però un paese serio entra nelle singole categorie, a costo anche di scontentare qualcuno. Mi scrive un ascoltatore, dice: buonasera, lavoro in acciaieria da oltre un anno, prendiamo il 30% meno di stipendio, ci hanno tolto anche il contributo mensa, certe volte ci lasciano a casa consumandoci le ferie. Pur servendo personale non assumono nessuno, da notare che si lavora su tre turni, compreso sabato e domenica, per 1.600 euro netti al mese, e non rientriamo nemmeno nelle categorie usuranti, avendo un contratto metalmeccanico, ma non cambierebbe niente anche se vi fosse un contratto siderurgico. Ecco, per esempio, uno può entrare anche nel merito di chi lavora in acciaieria, non saranno tutti uguali, l'impiegato non farà lo stesso lavoro di un metalmeccanico o di un siderurgico, però devi entrare nel tema. Qualcuno mi dice: usurante ascoltare Barisoni, ho capito, dubito che le daranno però un'agevolazione sull'età della pensione. Ultime notizie, dicevo, le banche. Qualcuno mi chiede del credito valtellinese, ne parliamo dopo nel commento di borsa. Il credito valtellinese è il peggior titolo, oggi è un tonfo, meno 13,30%. Dicevo, le banche, perché dopo la richiesta di Casini, del presidente della commissione d'inchiesta sulle banche, di un confronto tra Banca d'Italia e Consob, perché si sono registrate incongruenze e visioni diverse, Casini oggi ha precisato che gli elenchi dei grandi debitori insolventi delle banche venete rivestono carattere segreto. Questo apprendo l'audizione dei commissari liquidatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Casini ha anche ricordato che i commissari di Popolare di Vicenza hanno già trasmesso l'elenco dei maggiori debitori insolventi e oggi sono stati trasmessi anche per Veneto Banca. Viola, commissario liquidatore delle banche venete, ha detto: la struttura dell'attivo di Veneto Banca fa sì che più dell'80-85% dell'attivo sia, no, pazzesco, sia costituito da crediti deteriorati. È come se dicessi: quanto hai tu come attivo? Beh, io ho 100.000 euro, ma di cui 85.000 euro, di quello che ritengo essere il mio attivo, in realtà sono prestiti che ho fatto a persone che probabilmente non me li ridanno più, ma io faccio ancora finta che me li possano ridare. Questa era... Quindi solo una componente limitata è costituita da attivi finanziari e partecipazioni. Quindi la conclusione di Viola è che il rimborso del passivo dipenderà dalla recuperabilità questi crediti. Intanto faccio notare che i risparmiatori che avevano azioni di Veneto Banca e Popolare di Vicenza non hanno più nulla, ma devono comunque pagare mensilmente il deposito titoli a Banca Intesa, dai 7 ai 10 euro, perché venga costituito il nulla, nel senso, lo hanno segnalato le azioni dei consumatori, non è colpa di Banca Intesa, certo, se si sono crollati a zero il valore dei titoli, però insomma, fare pagare il deposito per un valore pari a zero, oltre il danno anche la beffa. Nel frattempo Carlo Messina, presentando i conti dei 9 mesi di Banca Intesa, dice che il terzo trimestre 2017 riflette anche l'impatto negativo dell'aver incorporato le due ex banche venete. L'utile comunque è salito a 2 miliardi e 469 milioni, sarebbe a 5 miliardi e 880 milioni con i 3 miliardi e mezzo di contributo per le banche venete. Si è impegnata comunque Intesa San Paolo a distribuire 3 miliardi e 400 milioni di dividendi nel 2017. Oh, vedo molti, adesso chiudo e lascio al metro, molti messaggi su il tipo di lavoro usurante, no? E anche quando uno è iniziato a lavorare. Sono d'accordo, ecco perché bisognerebbe entrare con competenza nel merito e stabilire quali categorie, in base anche a quando è iniziato a lavorare, quali categorie, quali mansioni. Lo dico col massimo rispetto, ma fare l'amministrativo in un'acciaieria non è come essere nell'altoforno. Sembra banale, ma la legge non distingue, anche sul pensionamento. Chi mi dice non vuole commentare la sconfitta del PD, la vittoria del centrodestra, si è perso la puntata di ieri. Noi non commentiamo quasi mai la politica, ma ne abbiamo parlato ampiamente, dando anche in diretta i vari aggiornamenti che arrivavano dalla Sicilia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, meteo, e poi vediamo di capire cosa ha o non ha ottenuto l'Italia al vertice di Bruxelles sul trattamento per le future sofferenze bancarie. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. And though NPL levels have been coming down for significant institutions, anche se i livelli di NPL sono scesi per gli istituti significativi, dal 7,5% circa a inizio 2015 all'attuale 5,5%, il problema non è ancora risolto. Molte banche mancano ancora della capacità di assorbire grandi perdite, poiché il rapporto fra sofferenze, capitale e accantonamenti resta elevato. Abbiamo pertanto bisogno di uno sforzo congiunto da parte di banche, supervisori, regolatori e autorità nazionali per affrontare questo tema in modo ordinato, in primo luogo e soprattutto creando un ambiente in cui gli NPL possano essere gestiti efficacemente e smaltiti in modo efficiente. Sulla discussione dell'addendum che si è svolta nel contesto della relazione di Daniel Nui, vorrei precisare che non c'è stato intervento di ministri salvo di chi vi parla, e sono intervenuto solo io sostenendo aspetti di metodo e di merito. Di metodo sul fatto che a nostro avviso l'addendum dell'SSM va oltre i limiti istituzionalmente definiti per l'azione del SSM in materia di sorveglianza. Essenzialmente il tema è noto. Noi riteniamo che l'addendum prefiguri un vincolo generalizzato per il sistema bancario nella gestione delle sofferenze, mentre invece il mandato dell'SSM è un mandato che riguarda casi singoli, banca per banca. Quindi riteniamo che ci sia, dal punto di vista anche legale, qualche forzatura, mettiamola in questi termini, dal lato dell'SSM. Sul lato della dal punto di vista della sostanza, poi abbiamo ribadito che includere, come sembra adombrare, l'inclusione dello stock di sofferenze e non semplicemente, come noi riteniamo sia utile, la gestione dei nuovi crediti che eventualmente possano trasformarsi in sofferenze, questo è un fatto che sarebbe fonte di preoccupazione. Quindi noi siamo assolutamente a favore dell'aggredire questo problema, ma questo deve essere fatto in tempi e in modi ragionevoli e soprattutto che evitino di generare eventuali nuove fragilità. Dunque, nell'ordine abbiamo ascoltato prima un pezzo dell'intervento del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che appunto ha parlato a Francoforte, ha detto attenzione, i livelli di sofferenze bancarie si sono ridotte, il problema non è ancora risolto, dal 7,5% all'inizio 2015 al 5,5%. E poi, a mio avviso, la frase ancora più importante del Ministro Padoan, che ha detto, aggiungo io, ero solo, ho chiesto solo io di avere un po' di gradualità. Certo che bisogna affrontare il problema, ma perché questa esigenza che ha solo la NUI del Consiglio di Sorveglianza della BCE di avere nuove regole molto più dure dal 2018, quando l'Italia sta comunque rientrando dalle sofferenze bancarie con il rischio di paralizzare tutta l'attività del credito. Le nuove regole, tra l'altro, sugli NPL delle banche, scrive la Federazione Bancaria Europea, contenute nell'addendum della vigilanza della Banca Centrale Europea, aumentano l'incertezza regolamentare. E Padoan ha anche detto c'è qualche forzatura legale, cioè non rientra esattamente, diciamo, in tutti i compiti della Banca Centrale Europea. Adriana Ceretelli, la mitica, buonasera, in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera. Allora, Adriana, insomma, un po' magari in maniera provocatoria, mi sembra che anche stavolta, questa volta, tutti si siano girati dall'altra parte. Padoan ha parlato in questo splendido silenzio, non gliene frega niente ai paesi del centro-nord delle sofferenze bancarie, perché le loro banche, al contrario di tante sofferenze, hanno casomai il problema dei derivati, ma la BCE sui derivati non sta facendo nessun giro di vite. Sono troppo polemico? No, non sei troppo polemico, le cose stanno esattamente così, ci sono due pesi e due misure, verso i derivati e verso i crediti deteriorati, ma la ragione per cui ci sono due pesi e due misure è che a suo tempo, quando si fece la normativa, i tedeschi riuscirono a fare esentare insieme ai francesi i derivati dal calcolo degli asset più o meno sani, mentre noi ci ritroviamo con il calcolo invece dei crediti deteriorati messi in prima linea. Ora, noi non siamo gli unici ad avere crediti deteriorati, ma siamo quelli che ne hanno di più, e in più è noto che la fragilità delle nostre banche fa parlare, perché c'erano altre fragilità che a suo tempo sono state però in qualche modo rattoppate, risanate, eccetera. E quindi noi continuiamo ad essere l'anello debole della catena delle banche nell'Eurozona, come siamo la catena debole per il debito. E naturalmente Padoan fa del suo meglio per cercare di affermare le nostre buone ragioni, che secondo me sono anche sacrosante, come però sono sacrosante le affermazioni di Draghi, che dice finché abbiamo questa zavorra nei bilanci delle banche, naturalmente il sistema bancario e la stessa Unione Bancaria Europea diventa più difficile da realizzare. No, dico agli ascoltatori, dico agli ascoltatori che guardate che può sembrare un tema tecnico, il problema è che se questa cosa parte dal primo gennaio, quando poi il piccolo imprenditore, ma in questo caso il rischio si pone anche per chi deve contrarre un mutuo in banca, perché anche i prestiti che hanno come garanzia una casa vengono sottoposti a regole più stringenti, poi inizia la guerra, non dico tra poveri, ma insomma tra il cliente e la banca, e la banca dice ma guardate che ci sono nuove regole europee. Io dopo ti voglio risentire, Adriano, dopo il traffico, faccio solo notare una cosa, e cioè Francia e Germania, la Germania in primis, che aveva in pancia Deutsche Bank e ha miliardi di sofferenze di derivati, sono riusciti a far passare il concetto che i derivati, cioè i prodotti più speculativi, alla base, anche loro, soprattutto loro, della crisi più grossa dal 29, quella del 2008, possono non essere contabilizzati in maniera così rigida. Le sofferenze bancarie, dove, al di là di alcuni casi che stiamo raccontando, spesso sono state la conseguenza di una crisi economica durissima in Italia, una doppia recessione nell'area euro, dovuta anche all'austerità senza crescita della Germania, che ha fatto saltare le imprese, e quindi se un'impresa salta non riesce più a ridarti i soldi che ha preso in prestito, quelle diventano il nuovo demone o il vero demone, il problema dell'area euro, non i derivati alla base della crisi economico-finanziaria del 2008. A me ricorda il problema del traffico di Benigni in Sicilia. Comunque, dopo il traffico vero, Adriana, vorrei capire che cosa può fare a questo punto l'Italia, o ci rassegniamo al fatto che dal 1° gennaio arriverà questa stretta tutta contro, diciamo, un sistema italiano, e che tocca molto poco il sistema e i titoli tossici in pancia alle banche tedesche. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Allora, Adriana Ceretelli, che possibilità abbiamo diciamo, di ottenere così un ripensamento, o anche sui tempi, da parte della Banca Centrale Europea? Ma io credo che diciamo, i segnali lanciati da Draghi vadano in una direzione ben chiara, cioè queste correzioni si hanno da fare. Credo però, e quindi questo credo che non sia in discussione, visto che non è la Nuima, è la Draghi che lo dice. Però penso anche che, come nel caso del bail-in, ci possa essere, come dire, un negoziato che diciamo, rende più ragionevoli i termini della questione, quindi non lo so in quale tipo di compromesso riusciranno a trovare, ma certamente nessuno ha interesse a destabilizzare il sistema bancario italiano con dei gravami improvvisi, eccetera. E poi c'è anche sicuramente la contestazione legale, nel senso che era stata presentata dallo stesso Presidente del Parlamento Tajani, e tra l'altro domani ci sarà un po' la risposta a tutto questo. Ecco, io credo che insomma, in qualche modo si arriverà a un compromesso che non toglierà i nuovi vincoli, ma magari li spalmerà nel tempo, oppure, non lo so, cercheranno delle graduatorie. Adriana, mi chiedono molti ascoltatori chi era il Presidente del Consiglio quando la Germania e la Francia ottennero di non avere i derivati. Mentre allora, io l'unica cosa che posso dire per certo, il ministro era Saccomanni. Probabilmente era Letta, però non ne sono certa, bisognerebbe andare o Monti o Letta, diciamo. Bisognerebbe andare a controllare, sinceramente non lo so. La cosa sicura è che era Saccomanni, ma il resto non allora, certa. Dopo, nel ringraziare la Mitica in collegamento con noi da Bruxelles, dopo il GR24, oltre che fare la borsa, parleremo anche di una posizione, a mio avviso, importante del commissario europeo Moscovici sui paradisi fiscali e sui Paradise Papers, perché insomma ne abbiamo parlato anche in apertura, e poi commenteremo, oltre che la borsa, anche gli altri due temi, quindi mercato importantissimo per l'Italia delle due ruote, il rapporto Svimez. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Qualcuno mi scrive: volete fare sempre le vittime? No, è un problema di equità. Non è un problema di vittimismo, è un problema di equità. Se voi volete spiegarmi che i miliardi di derivati che ha in pancia Deutsche Bank sono meno gravi e meno rischiosi a livello sistemico delle sofferenze bancarie prese perché l'economia è crollata in questi anni dalle banche, io penso che stiamo facendo come Tafazzi. Comunque, GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di volevo far sentire, perché è rimasta indietro quella dichiarazione di Moscovici, visto che si parla molto di Paradise Papers e abbiamo raccontato che Apple, come scrive il New York Times, avrebbe accumulato più di 128 miliardi di dollari di profitti offshore non tassati negli Stati Uniti o in altri paesi. E il New York Times, citando dati OCSE, dice che ogni anno 240 miliardi di dollari di entrate vengono persi ogni anno grazie al fatto che i colossi si mettono a pagare tasse nei paradisi fiscali. Pagare tasse nei paradisi fiscali è quasi un ossimoro. Però su questo è intervenuto oggi anche il commissario europeo agli affari economici e monetari Pierre Moscovici, che ha detto: speriamo di muoverci rapidamente contro i comportamenti fiscali emersi dai Paradise Papers. Faut absolument que nous accélérions. È assolutamente necessario accelerare la nostra azione e il nostro programma, non solo contro le frodi fiscali, ma anche l'evasione fiscale, l'ottimizzazione e la pianificazione fiscale aggressiva. Serve la lista nera dei paradisi fiscali, di cui si parlerà stamattina. È importante che questa lista sia pubblicata rapidamente entro il 2017 e che sia credibile. E occorrono anche sanzioni appropriate per i paesi che appartengono alla lista di paradisi fiscali. Voglio precisare che non ci saranno paesi dell'Unione Europea in questa lista. È anche necessario migliorare il livello di legalità e responsabilizzare gli intermediari. Ci sono già delle disposizioni sul tavolo per far sì che gli intermediari aumentino e assicurino la trasparenza. C'è una proposizione sulla tavola che demanda agli intermediari di fare la trasparenza. Dunque passiamo adesso, speriamo che la Commissione Europea si muova, anche se poi sappiamo che gli interessi di alcuni paesi, Irlanda ma non solo, anche Lussemburgo, non sono esattamente simili ai nostri. Andiamo sulla borsa. Dicevo, oggi giornata poco mossa come indici e anche come titoli. C'è un titolo che fa notizia, adesso è arrivato un flash agenzia, mi riferisco al Credito Valtellinese. Però sul resto, invariata Milano, meno 0,50 Parigi, meno 0,66 Francoforte, meno 0,61 Londra. Dow Jones invariato, quindi Milano si comporta meglio di altre borse. Calano alcune banche, ma soprattutto Biper Banca meno 1,90 e poi Banco BPM meno 1,50%, UBI meno 1. Tra gli altri titoli, Prismian meno 1,90, Leonardo ex Finmeccanica meno 1,70 come Ferragamo, Ferrari meno 1,60, ST Microelectronics meno 1,5, Recordati meno 1,40%, Telecom meno 1,20 come Hughes Net-a-Porter. Ancora il fronte opposto invece, Banca Mediolanum, che da questo punto di vista guadagna l'1,5%, Mediobanca più 1,15%, Eni ancora sul prezzo del petrolio più 1%, Generali più 0,60 come Terna, mezzo punto Intesa San Paolo e Azimut, ma anche Campari e Snam Rete Gas. Dicevo del caso del Credito Valtellinese, che è il caso di oggi di borsa. Ha perso nel finale il 13,3%, c'erano voci forti di un aumento di capitale, è arrivata la conferma. Allora, il Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese ha approvato i conti dei 9 mesi, dà via libera al piano industriale 2020 che passa attraverso un aumento di capitale con diritto di opzione fino a un massimo di 700 milioni di euro. Ecco perché il titolo va giù. Lo si legge nella nota, in cui viene anche prevista la chiusura di 88 filiali la riduzione dell'organico anche attraverso l'utilizzo del fondo di solidarietà con un obiettivo inferiore alle 3.700 unità a fine piano 2020. E quindi, insomma, la cosa che ha deprezzato e buttato giù il titolo è l'aumento di capitale, come spesso avviene quando c'è un aumento di capitale in questi casi. 700 milioni di euro non è poco. Il titolo perde 13,3%, male anche prima industria meno 7,30, risanamento meno 6, Class meno 5, Giglio Group meno 4,30%, fronte opposto Invest più 10,70, Ceramiche Ricchetti più 8,16, Go Internet più 4,60, Club più 4,5%. Vedo molti messaggi sui paradisi fiscali. Qualcuno dice che bisognerebbe abbassare tutte le tasse. Ho capito, però siccome in questo momento il dato di fatto è che di grandi abbassamenti di tasse in Italia non se ne veda l'ombra, almeno fate pagare le tasse ai grandi colossi come le pagano i piccoli artigiani, i piccoli commercianti, i lavoratori dipendenti e quant'altro, con la stessa severità. Poi vogliamo parlare di abbassamento delle tasse, di riduzione del cuneo fiscale in primis, quanto costa un lavoratore all'impresa e quanto becca in busta paga, ma ci mancherebbe. Però questo non vuol dire che il benaltrismo, allora continua a pagare. Il dato che avevo letto che era incredibile, la Apple che ha pagato lo 0,005% degli utili in Irlanda. Per quello che riguarda invece molti ascoltatori dicono, ma guardate che mentre i derivati, le perdite sono teoriche, i crediti deteriorati invece sono certe. Allora diciamo che i derivati vanno bene in pancia alle banche, invece i crediti deteriorati no. Andiamo su un tema più allegro, mi riferisco alla leadership italiana nel settore delle due ruote. Metà del fatturato europeo lo facciamo noi, metà degli occupati europei li abbiamo noi, 4 miliardi di giro d'affari, il ciclo e motociclo, 15.000 addetti, pari appunto al 56% della manodopera europea. Si annuncia come l'edizione più importante di sempre, quella di oggi, quindi la 75esima edizione, perché più 14% gli espositori, più 57% i biglietti prenotati. Tante anteprime, poi molto colore, gli attori New Reeves, i campioni del mondo, Agostini, Biaggi, Cairoli. Vorrei fare il punto sul settore però con Mario Cianfalone del Sole 24 Ore. Buonasera Mario. Buonasera, buonasera. È un settore che va bene, l'ho detto oggi anche il presidente di Confindustria, lo specchio del paese che tira, l'export va molto bene, gli investimenti privati sono cresciuti del 30%, fiore l'occhiello dell'industria italiana. Il settore delle due ruote, ho visto poi vari modelli, la Piaggio che presenta la Vespa elettrica, esatto. Che è un'autonomia di 99 km che sale a 250 col motore termico. Che cos'è il motore termico? È una è la stazione di ricarica interna. Uno schema che era stato utilizzato anche da molte case automobilistiche tempo addietro. Hai un gruppo elettrogeno, un motore a benzina che quando finisce la carica della batteria, ioni di litio, la ricarica, ma non spinge la moto. È una idea intelligente, l'hanno usata. Cioè la benzina serve solo a produrre energia, ho capito bene. Solo a produrre energia, è un'idea antica che risale al mondo navale. Mm-hmm. Ed è sicuramente una cosa molto interessante. Ecco, per il resto a te il compito, l'onore e l'onore di dare un bilancio complessivo di questo settore che oggi celebra, con oggi inizia a celebrare il suo momento più importante a livello europeo, prego. Sì, è la EICMA, è il salone più importante del mondo, il salone dove le case concentrano anche nei giorni precedenti gli annunci principali, e francamente questa è un'edizione dove c'è tanto da vedere, c'è tanto di Made in Italy, c'è tanto di Ducati, che per quanto sia a capitale tedesco, perché del gruppo Audi Volkswagen, ha tirato fuori modelli interessanti come una moto che si chiama 1299 Panigale, che è una quattro cilindri mutuata da MotoGP. E non va dimenticato che comunque tanto del Made in Italy e anche gruppi giapponesi, Honda costruisce in Italia e il mercato italiano, che il 60% è fatto da scooter e complessivamente il 30% è siglato Honda, sono gli scooter SH che sono fatti alla testa. Quindi il Made in Italy è fondamentale, ma è fondamentale nei caschi, nella tecnologia, nell'abbigliamento. Questo è veramente un salone del trionfo dell'italianità e la capacità imprenditoriale. Noi abbiamo aziende come Nolan, come Givi, che producono l'eccellenza di parte del mondo della moto, che è sempre importante. E il famoso indotto, in cui anche lì siamo leader. Senti, da questo punto di vista, gli elementi più interessanti sull'export, noi sappiamo che i giapponesi hanno, lascia stare la Ducati, la BMW, insomma, sono molto forti sulle cilindrate più alte, noi siamo fortissimi invece anche sul resto. Ma gli elementi più interessanti quanto a export e domanda, da dove stanno arrivando? Stanno arrivando sicuramente dal gruppo Piaggio Ducati, con una spinta sul premium, e anche da piccole avventure interessanti come la Energica, che è la Tesla delle due ruote ed è italiana, quotata in borsa, e questo ci dà grandi speranze per l'export italiano, oltre a fenomeni come Vespa. Ma ti do un dato singolare: produttore di caschi italiani Nolan è diventato il primo fornitore di caschi per la polizia di Stato cinese, battendo i produttori locali. E questo è una piccola notizia, però se pensi che quella era un'azienda che si è messa in solidarietà anticinese qualche anno fa e adesso riesce a dare una spinta di questo tipo, è una cosa che francamente da italiano inorgoglisce. No, come tutti appunto le varie anime, diciamo, del ciclo e motociclo, perché appunto stiamo parlando di, in Europa, solo in Europa, 36 milioni di ciclomotori e motocicli, di cui 8 milioni e mezzo solo in Italia. Allora, in bocca al lupo a tutti i produttori e a maggior ragione ai produttori, ai fornitori, all'indotto, perché tu citavi appunto anche tutto l'indotto italiani. Buon salone EICMA e grazie anche a questo punto a Mario Cianfalone del Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico e poi il rapporto Svimez, che dopo anni di solo ombre, oggi ha anche qualche elemento di luce. Mi riferisco al recupero in percentuale, chiaramente parte dai livelli più bassi, dell'economia del nostro mezzogiorno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Soy el fuego que... Dunque, un PIL italiano che cresce dell'1,5% con un più 1,6% al centro-nord quest'anno e più 1,3% al sud. L'anno prossimo il PIL italiano all'1,4% in crescita nel centro-nord, all'1,2% nel centro-sud. Anche i consumi faranno 1,6% quest'anno nel centro-nord, 1,5% nel centro-sud, 1,4% nel centro-sud l'anno prossimo, 1,3% nel nord. Lo dico perché è la prima volta che da anni che vedo un rapporto Svimez in cui, pur partendo da una distanza, da un gap ben più ampio, il nostro mezzogiorno ha dei tassi di crescita vicinissimi a quelli del resto del paese, con 21.500 statali in meno nel periodo 2011-2015. Crescono ai meglio occupati, ma soprattutto a basso reddito. Presidente dello Svimez, Adriano Giannola, buonasera. Buonasera. Il problema è proprio sull'occupazione quanto a gap, visto che come tasso di crescita, pur partendo da un livello più basso, il tasso è simile a quello della media del paese. Occupazione e qualità dell'occupazione, con la conseguente fuga di cervello, di studenti, di manodopera dal sud? Sì, il problema principale è proprio questo. Tenga conto che il sud in questi anni di crisi ha perso circa 500.000 di posti di lavoro, ne ha recuperati 200.000, ne mancano 300.000, quindi anche l'incremento di questa occupazione che c'è ed è rilevante nel giro di 2 anni, però è un'occupazione che anche quando sono contratti a tempo indeterminato spesso è un'occupazione part time, quindi un'occupazione che diciamo è un part time involontario, nel senso che i lavoratori vorrebbero avere un full time e contemporaneamente sono redditi più bassi, contemporaneamente sono spesso redditi famiglie monoreddito, e quindi questo chiaramente frena parecchio lo slancio di questa ripresa, ma è molto consolante peraltro che la ripresa ci sia, che ci siano esportazioni per la prima volta molto significative, che la regione più dinamica nel 2016 è stata la Campania, la più dinamica in Italia. Insomma, sono tutti elementi che ci fanno capire che c'è una svolta. Come è stato detto, il Sud non è un vuoto a perdere, ma casomai un'occasione da tenere ben presente per la ripresa di tutta l'economia italiana. Ecco, tra l'altro il dato di un recupero dell'occupazione, ma con una qualità più bassa di ore di lavoro e quindi di salari, devo dire che è un dato nazionale che a maggior ragione si sente nel nostro mezzogiorno. Tra i vari intervenuti oggi vorrei far sentire l'amministratore legato di Invitalia, Domenico Arcuri, che al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos ha detto sì, però diciamo, anche l'industria 4.0, quindi incentivi, superammortamenti e iperammortamenti, che sono stati utili a livello di investimenti, devono avere maggiori opportunità al sud, altrimenti va in controtendenza rispetto agli obiettivi. Le politiche a sostegno dell'offerta produttiva, se sono pensate, progettate e soprattutto misurate, in tutto il mondo funzionano. Se sono generiche, poco pensate e per nulla misurate, non funzionano da nessuna parte e quindi neanche al sud. Dobbiamo prima costruire ricchezza e poi provare a redistribuirla. Per costruire ricchezza dobbiamo lavorare sull'incremento della dimensione e della qualità dell'offerta produttiva, non solo nell'industria ma anche nel turismo, anche nell'agricoltura innovativa, e poi questa ricchezza può essere redistribuita. Negli ultimi 3 anni questo sta finalmente tornando a succedere. Industria 4.0 è un importantissimo ritorno alla politica industriale nel nostro paese che mancava da troppi anni, sta avendo effetti molto importanti e ricadute molto visibili sulla crescita del nostro PIL. Certo, nel sud Industria 4.0, per le questioni del peso relativo dell'offerta produttiva, viene utilizzata di meno, quindi forse servirebbe una riflessione ulteriore rispetto a quest'area del paese. Soy el fuego que... Ecco, veniamo in conclusione, Presidente, a che cosa si può fare. Industria 4.0, da molti elogiata, ha avuto anche nuovi finanziamenti, però è chiaro che se non vogliamo metterci decenni a recuperare lo scarto che si è di nuovo accumulato, cioè la divaricazione che, si è di nuovo, che è di nuovo aumentata in questi anni, forse nel seguire anche il ragionamento di Arcuri bisognerà dare qualche incentivo ancora più mirato per il Sud? Sì, Arcuri dice giustamente che politiche essenziali, necessarie, ma generali, di per sé in una realtà squilibrata, dualistica come la nostra, non determinano un accorciamento delle distanze. Noi in una nota econometrica, diciamo così, abbiamo stimato che ci sarà un aumento delle distanze, cioè tutti crescono, quindi favorisce tutti quanti, ma contemporaneamente aumenta il gap tra nord e sud. Questo non vuol dire criticare Industria 4.0, vuol dire semplicemente che accanto a questa politica industriale finalmente ripescata dopo 20 anni di, come dire, di oblio, ci vogliono politiche mirate, e qui credo che Arcuri faccia riferimento a strumenti come i contratti di sviluppo e così via, che nel sud stanno funzionando. La Campania in qualche modo deve un po' il suo exploit, anche una politica industriale per così dire aggressiva della regione, che usa i fondi strutturali mirati proprio per esempio ad agganciare le grandi imprese, soprattutto internazionali, che ritrovano una convenienza a localizzarsi in realtà come quelle del Mezzogiorno, o strumenti come le zone economiche speciali, che sono un tratto di vantaggio competitivo, logistico e per così dire localizzativo, estremamente potenzialmente forte e particolarmente adatto alla struttura del sistema dei porti meridionali. Allora, guarda, io sono d'accordissimo con lei, anche perché rispondo ad alcuni ascoltatori nel ringraziarla e salutarla. Guardate che in questo caso il piano, forse qualcuno non lo conosce, Industria 4.0, è tutto tranne che l'incentivo a pioggia, l'incentivo, qualcuno mi cita la cassa del mezzogiorno, gli aiuti, è perché tu gli iperammortamenti e i superammortamenti al 140 e al 240% li puoi avere se investi, se lo compri sto macchinario, ok? Allora io dubito che un imprenditore si metta a comprare un macchinario solo per andare in ammortamento, beh, sarebbe veramente... Quindi intanto ci deve essere un ragionamento dietro, ti serve quel macchinario, deve rientrare per il 240% soprattutto nella parte di digitalizzazione dell'impresa, quindi non può essere un vaso di piante, ma devo dire, i dati che noi abbiamo alla mano sono di un grande utilizzo di questo, quindi è l'opposto della cattedra nel deserto, dei soldi dati a pioggia e quant'altro. Quando si parla di elementi di vantaggio si prende anche atto che per far questo... Forse con questo meccanismo in cui tu vedi l'investimento e poi lo Stato ti dà un premio, come diciamo, alcuni vantaggi di carattere fiscale, si può fare di più anche per il nostro mezzogiorno. Grazie al presidente dello Svimez, Adriano Giannola. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.